Ciao, sono Jovanotti. Bonjour, c'est Cash Patti. Che bella festa. Oh, ragazzi, anche voi qua. Hello, we're Banana Rama. Bene, bene. Allora ci divertiamo stasera. Vai. This is Joey Tempest. Hi, this is Barry White. Vai, mitico. Hi, everybody, this is George Michael. I'm Rick Astley. Ciao, we're Bros. Hey, la. Yo, this is Derby. Yo, this is Derby. Oh. Hello, my name is White Judge. È qui la festa!